Linee d'ombra di Matteo Caccia. Sono convinta che questo tipo di fenomeni ti succedano sempre quando hai le antenne molto affinate, quando soffri molto. Ecco, io credo di sì. La estrema pena, ecco, di un cuore straziato. Questa è una storia vera. Credo di non averne parlato con nessuno, ma adesso, dopo che sono passati tanti anni, ho deciso di renderla pubblica. Storie di apparizioni e di universi paralleli in una puntata che si intitola Sognando mio padre. Sono lo spirito di tuo padre, condannato per un periodo a vagare di notte e di giorno confinato in una dimora di fuoco. Se non mi fosse vietato di descriverti i segreti della mia prigione, potrei narrarti una storia la cui parola più lieve ti strazierebbe l'anima. Ascolta, ascolta, oh ascolta. Se mai hai avuto un po' di amore per tuo padre, vendica il suo indegno infame, snaturato assassinio, Amleto. È stato detto che mentre dormivo nel mio giardino un serpente mi abbia morso. Ma sappi, nobile figlio mio, che quel serpente che ha tolto la vita a tuo padre ora siede sul suo trono. Apriamo oggi con un riferimento altissimo, apriamo con una citazione addirittura da Amleto, che sapete, forse Amleto è un personaggio, diciamo, di cui ci si ricorda un'immagine, un'iconografia piuttosto precisa di questo tizio vestito di nero con un teschio in mano che dice essere o non essere, punto. Ci si dimentica tutto il resto della storia, cioè che Amleto è un giovane uomo, è principe di Danimarca per l'esattezza, Elsinore si chiama il luogo dove vive, e lui ha una madre che ha sposato lo zio, che è di fatto il nuovo re, è diventato il nuovo re. Solo che Amleto aveva un padre, e il padre era il re, sposato appunto con sua madre, che è stato ucciso. È stato ucciso, e all'inizio dell'Amleto, all'inizio di tutta quanta la storia, Amleto sale sulle mura del castello perché dei militari, dei soldati, gli hanno detto: di notte arriva qualcuno, arriva un'apparizione, e secondo noi è il fantasma di suo padre. E quindi lui sale sulle mura, rimane da solo, e arriva quest'uomo quasi invisibile che è avvolto in una corazza portentosa, cioè di fatto è vestito come un cavaliere, come un guerriero, e gli dice: io sono tuo padre. Ma soprattutto gli dice: Amleto, vendicami, perché il serpente che punse la vita di tuo padre ora ne porta la corona, e cioè lo zio che lo ha ucciso. E da lì comincia tutta la menata di Amleto: cosa faccio, lo uccido, non lo uccido, divento un assassino, bla bla bla, essere o non essere, al punto che Amleto viene definito da alcuni, da quelli che lo bistrattano, come una sorta di adolescente che non sa che decisione prendere, non sa cosa vuole fare della sua vita. È molto di più, ovviamente, insomma, non voglio fare spoiler, però tutti più o meno sanno, alla fine muoiono tutti, alla fine muoiono tutti, al punto che arriva questo nuovo re che si chiama Fortebraccio, che dice: ammazza ragazzi, che disastro. E io, insomma, conosco così bene Amleto perché quando facevo l'attore in teatro ho recitato una parte all'interno di Amleto, e alla fine dello spettacolo io facevo anche il personaggio di questo Fortebraccio, insomma questo giovane principe che arriva, e sul palco erano tutti per terra, cioè erano tutti morti, veramente morti, e io arrivavo e dicevo, guardando i morti, che spettacolo orribile, e intendendo dire che cosa orribile mi si para davanti alla faccia. E invece durante una replica arrivai e dissi questa battuta, dissi: che spettacolo orribile. E dal pubblico qualcuno disse: e te credo, intendendo però lo spettacolo che aveva appena visto. Quindi fu abbastanza, da una parte fu un po' triste perché non avevamo reso felice il nostro pubblico, ma dall'altra fu anche molto divertente. Ma tant'è, al di là dell'aneddotica teatrale, vi dicevo, abbiamo cominciato questa puntata con un pezzo tratto da Amleto, proprio perché le puntate di oggi hanno a che fare con i padri, con i padri nella fattispecie, con delle apparizioni avvenute dal nulla e con dei padri che invece hanno sognato dei mondi che non c'erano, dei mondi paralleli diversi dai nostri, e in quei mondi sono riusciti a fare delle cose che in questo mondo non potevano fare. Insomma, è una puntata che parla di padri e parla in qualche modo di, non di paranormale, ma di qualcosa che succede al di fuori da questa realtà. Quindi mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Questi sono i nostri giorni sospesi, giorni durante i quali il tempo sembra essere una dimensione a parte. Qualche volta amico, ma per me è quasi sempre un nemico, che però stranamente mi diventa quasi simpatico. Simpatico perché, specie la mattina presto, direi all'alba quando mi sveglio, riesco a sentire le storie strane di Linee d'Ombra. E proprio della mia storia strana oggi vi voglio parlare. Adesso sono una matura signora, purtroppo vedova da pochissimo tempo, mamma di Elisa e nonna di Clara, ma circa 40 anni fa ero una ragazza giovane che aveva una famiglia felice, con un marito, Bruno, e nostra figlia Elisa, che all'epoca aveva 4 anni. Il mio papà era mancato dopo una breve e atroce malattia, da pochi mesi, causandomi un dolore straziante, anche perché, tra le altre cose, lo avevo visto soffrire in maniera sconvolgente. All'epoca non c'erano le cure palliative. I pazienti soffrivano e basta. Eravamo felicissimi perché mia figlia era piccola, aveva 4 anni circa. Ecco, solo io avevo questo grosso lutto nel cuore perché mio papà mi è mancato in 6 mesi, era molto giovane, aveva anche 59 anni. Praticamente è mancato nel momento forse più sereno della sua vita, perché lui e la mamma finalmente erano in pensione, insomma, non dico che non stavano nell'oro, ma erano sereni. E quindi era il momento forse più felice della loro coppia, diciamo, no? E quindi io come mia famiglia, mia personale, di quella che mi ero creata, ero felicissima. Però avevo questa grande tristezza nel cuore, diciamo, perché avevo perso questo mio papà. Arriviamo comunque all'episodio in questione. Ogni sera addormentavo la mia bambina nella sua cameretta, canticchiandole una canzoncina dolce e rimanendo sdraiata sul lettino vicino a lei. E lei, quasi immediatamente, si addormentava. Anche quella sera il copione fu rispettato, e nel buio, dopo un po', sentivo il suo respiro regolare. Ero pronta ad alzarmi, quando, nell'oscurità, sentii che qualcosa stava accadendo. Dalla porta quasi completamente accostata, filtrava un po' di luce che proveniva dal soggiorno, e con quel piccolo chiarore lo vidi. Sulla sedia ad ondolo, che si stava muovendo, c'era il mio papà, con il vestito più elegante che in vita possedeva, che poi era quello con cui lo avevamo sepolto. Contrariamente all'ultima immagine che avevo di lui, era molto bello, sano, anche se un po' triste. Mio papà non diceva niente, solamente mi guardava, ed io, rendendomi conto che la situazione era assurda, ero impietrita. Father, Father, let me love you. Saw you wandering in my dream last night, singing wonder, wonder what you might do. You can't simply hide our dream in the blue. Don't try to fight, don't let me go. You've gone too far from what I know. I lost my heart in the dark with you. Father, Father, why you let me go? Father, please don't let me go. Ebbi la forza di dirgli piano queste parole. Papà mio, ti voglio tanto bene, ma non tornare più, perché mi fai troppa paura. Lui scomparve e restò solo la sedia ad ondolo che continuava a muoversi. Dopo un po' riuscii ad alzarmi e ad andare di là dove c'era Bruno, mio marito. Lo guardai e gli dissi: domani portiamo via la sedia ad ondolo. Non mi rispose, ma non so come, qualcosa doveva avere capito, perché il giorno dopo la sedia era sparita. Sono passati tanti anni, e specialmente adesso che sono sola e penso e ripenso alla mia vita e alle cose che mi sono accadute, ancora mi pento di aver detto al mio caro papà quella frase. Mi sono pentita a morte di avergli detto, guarda, non riesco a sopportare, ho troppa paura, ti prego non tornare più. Ma sai, ero giovane e mi è successo questa cosa improvvisa. Ripeto, il mio panico era totale, non mi era mai successa una cosa così intensa, voglio dire, no? E invece avrei voluto dirgli se stava bene, se stia in pace, tutte queste belle cose qua che erano legittime, perché poi, sai, sinceramente io ci credo nell'aldilà, ci credo con, come dire, con raziocinio, perché non sono una che così si mette a fare sedute spiritiche o stupidate del genere, non so come dire. E quindi mi sono pentita amaramente di non aver dato retta a mio papà e di non averlo secondato, come dire, no? Di non aver avuto la pazienza di stare là, magari piena di paura. Difatti, per 40 anni non l'ho più rivisto, fino a 2 anni fa, ma questa è un'altra storia. Durante l'inverno successivo, io e la mia bambina ci siamo salvate per un filo da varie situazioni. Abbiamo evitato per un attimo una finestra che dal quinto piano di una casa in ristrutturazione si era staccata. Un'altra volta una grossa trave caduta da una gru di un cantiere ci ha quasi sfiorate e tutti i presenti all'accaduto rimasero sbigottiti di fronte alla nostra fortuna di non avere riportato neppure un graffio. Ma io sapevo chi mi proteggeva. Il mio angelo era mio papà, anche se non avevo avuto il coraggio di vederlo e lo avevo respinto. Caro Matteo, questa è davvero una storia vera. Credo di non avere parlato con nessuno di questo, ma so che è veramente successo. E appena adesso, dopo che sono passati tanti anni, ho deciso di renderla pubblica, perché secondo me tante persone hanno visto qualcosa del genere. E sicuramente anche la mia testimonianza è preziosa, è la prova che dopo di noi esiste un altro mondo e noi siamo fatti per proseguire il nostro cammino anche da un'altra parte. Good night, good night. Look at that moon shine so bright, and tonight he smiles especially for you. Sleep tight. Sleep tight, you know everything is all right, and tonight I will be here watching over you. For tonight I will be here watching over you. Tonight I'll be here watching over you. Sweet dreams, sweet dreams. It is never as real as it seems, and in the morning when you wake up, I will be right here. Sleep on, sleep on, for no matter how dark or how long, it may seem that your night is, I will still be here. I will still be watching, watching over you. So sleep, little darling, sleep on through. La storia di Maria Luisa è una storia bellissima per molti motivi. Primo, perché parla di un rapporto con un familiare, con il padre. In questo caso la puntata si intitola Sognando mio padre, non a caso, proprio perché abbiamo deciso di tirarla così in base alla sua storia. Parla del rapporto con un padre, ma parla del rapporto con un figlio, parla dell'essere figlia e dell'essere madre, insomma ha diverse diramazioni la sua storia, oltre al fatto che parla comunque di un episodio che ha qualcosa di misterioso. Pronto? Ciao Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Grazie, tutto a posto, tutto procede. Come sta andando questo periodo che, da cui lentamente stiamo uscendo? Ne sei uscita, insomma, tu e la famiglia, tutto bene? Ma ti dirò, sì, me la sono presa abbastanza con filosofia, ecco, diciamo. Sì, perché ho una casa abbastanza piacevole, per cui ho molto spazio, per cui non ho sofferto particolarmente. In più sono sempre stata contornata da mia figlia, bene o male si è sempre interessata, è venuta magari un attimo, per cui assolutamente non mi sono sentita né sola né abbandonata. Bene, adesso la situazione lì dove stai tu, come diciamo, è tranquilla? Sì, qua la situazione è calmissima, le persone sono abbastanza brave, vedo che quando si va in giro, si sta sempre tutti abbastanza attenti perché tutti quanti hanno la mascherina, non ci sono persone indisciplinate, cioè, ecco. Bene, bene. Meno la sera qualche ragazzo così, ma insomma si vede che ci tengono a restare sul pezzo, come dire, no? Bene, bene, bene. Senti, veniamo alla storia. L'episodio accade nel 1980, giusto? Sì. E il tuo babbo era morto da poco? Il mio babbo era morto circa 10 mesi prima. Il mio babbo è morto nel maggio del 79. Che cosa ricordi esattamente di quella notte? Cioè, tu ti ricordi proprio di aver che lui era lì su quel dondolo? Sì, io mi ricordo esattamente quello che ho scritto, parola per parola. Io ero là con questa bambina che ormai era addormentata, saranno state 8:30 di sera, ma anche meno, anche 8:00. Comunque era inverno perché c'era buio fuori. Tutta la faccenda era come sempre, non c'era niente di oscuro, di triste, di tragico, niente, zero. Mio marito guardava di là il telegiornale in soggiorno e io ero con questa bambina che dormiva. E a un certo punto ho visto che era profondamente addormentata e ero già praticamente pronta per andar via quando ho sentito che qualcosa, c'era uno strano alone nella stanzetta, una strana atmosfera. Mm-hmm. E poi ho sentito questa sedia d'ondolo che si cigolava, insomma, no? Nota bene che la sedia d'ondolo era parecchio lontana dal lettino, non potevo averla toccata io in nessun modo, era... Ok, no? Sì, no, chiaro, chiaro. E quando mi sono girata sul fianco della parte giusta, ho visto mio papà che era seduto, che si stava dondolando, che mi guardava. Ma secondo te qual era, diciamo, qual era, se lo hai percepito o se ci hai ripensato, qual è stata la ragione di questa visita, chiamiamola così? Ma perché probabilmente lui voleva proprio venire a trovarmi, perché non l'avevo mai né sognato né non avevo, dopo appunto la sua perdita, diciamo, non avevo più sognato, non avevo fatto sogni, non c'era stato nessun contatto da parte mia o sua, diciamo, mistico, così spirituale, come dire, no? Però ero molto molto molto addolorata. Io ho avuto un dolore fortissimo per mio papà tanti anni e infatti quando sono rimasta che l'ho visto mi è venuto un colpo, cioè sinceramente so cos'è la paura, ecco, me la ricordo tutt'oggi. Avevo un brivido di freddo lungo la schiena perché era una cosa irreale, no? Mai più avrei potuto pensare di venire in contatto così con lui, no? Come dire. Certo. È un'esperienza, guarda, travolgente. Ma a te, proprio. Scusami, Maria Luisa, io so che ci sono persone che credono a certe cose, persone che non ci credono, ma soprattutto ci sono persone che in qualche modo, io purtroppo non sono tra quelle, che hanno la capacità di vedere, di sentire, di percepire delle cose che sono meno concrete, meno reali. Tu sei una di quelle, cioè ti è già capitato di percepire delle cose che... Ah, ok, cioè hai una forma di, diciamo, una forma medietà. Di... Sì, è una caratteristica che me l'ha passata mia madre, anche mia madre era così, ti dico la verità. Ma comunque niente, di solito si trattava di sogni oppure di sensazioni collegate con le persone viventi davanti, no? Niente di tanto intenso, no? Come dire... E infatti io mi sono accorta di questa cosa qua perché prima di sentire la sedia che dondolava mi sono accorta che l'atmosfera stava cambiando, capito? Quando mi sono accorta che l'atmosfera stava cambiando mi sono girata e ho visto mio papà là, non era insieme. Io ti ringrazio davvero perché sento anche nella tua voce la commozione e l'emozione nel raccontare questa cosa. So anche che purtroppo tuo marito è mancato non tanto tempo fa e so però anche che hai la gioia di avere una nipotina adesso. Sì, certo. Riesci Solo a che ti vedere? volevo ancora dire una. Dimmi. Ti volevo ancora dire una cosa a proposito di questa storia che ti ho Sì, raccontato. dimmi. È stato molto difficile prendere la decisione di scriverla e più che scriverla di poi farla mandare in onda, no? Però è una cosa che ho voluto fare proprio per mio papà, nel senso che con questo ho voluto chiudere il cerchio. Io ho passato anni a pentirmi di avergli detto non venire più, non tornare più, perché ero terrorizzata, ma poi mi sono pentita amaramente. E allora ho pensato che se per caso venivo scelta, questa era una gratificazione a lui, un chiedere perdono, Eh capito? Se sì. lui mi sente, Speriamo che in qualche modo sarà sia arrivata. contento. Esatto, speriamo che in qualche modo Appunto, attraverso appunto. l'etere sia arrivata. Maria Luisa, ti abbraccio forte. Non si può fare, Grazie. legalmente non si può fare ancora, ma è come se lo stessi facendo. No, è vero. Va bene. E in bocca al lupo per Grazie. tutto. A presto. Grazie anche a Grazie a te, te. buona Ciao vita. Maria Luisa, grazie. Grazie. Ciao, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Grazie davvero a Maria Luisa per questa storia che, per quanto sembri o per quanto possa sembrare alle persone molto molto scettiche, e tra l'altro io sono tra quelle, quindi diciamo sono il primo a immaginare che una cosa del genere sia molto strana, che magari sia frutto della suggestione o magari un sogno in un sonno fugace mentre si addormenta la propria figlia, come in questo caso, eppure probabilmente può essere che in qualche modo esistano degli universi diversi da questo e che forse in qualche modo si intersecono al nostro. Chi lo sa? Comunque, grazie Maria Luisa per averci raccontato questa storia. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. La prossima storia che vi raccontiamo parla di un padre, non un padre scomparso che viene sognato o visto o immaginato, ma di un padre che immagina e ogni tanto vive dei mondi paralleli. È una storia che ha raccontato in uno dei suoi libri uno scrittore italiano di grande successo, si chiama Edgar Queret. Il libro invece si intitola 7 anni di felicità, in Italia è pubblicato da Feltrinelli. E in questa storia ci racconta di suo padre, dei suoi universi paralleli e di una tazzina di caffè. State con noi. Quando avevo 6 anni, mio padre lavorava in uno snack bar con piscina non lontano da una delle spiagge di Tel Aviv. Ogni giorno alle 5:30 del mattino usciva di casa per andare in piscina. Nuotava per 2 chilometri, faceva la doccia nello spogliatoio e si metteva al lavoro. Non tornava a casa prima delle 9 di sera. 14 ore al giorno, 7 giorni su 7. Scaricava scatole di bibite, preparava panini e toast e serviva il caffè in bicchiere al tavolo dello snack bar della piscina. Anni dopo, papà diceva sempre che quelli erano stati i giorni più belli della sua vita, ricordando con affetto come l'aria salata che entrava dal mare si mescolava nei polmoni con l'odore del caffè e delle sigarette importate che vendeva lì al bar. Il caffè, le sigarette e il mare sono sempre state le 3 cose preferite di mio padre. Per me quei giorni non erano così felici. Quando papà tornava dal lavoro io ero già a letto. E a parte il sabato, il giorno in cui andavo a trovarlo in piscina con mia madre, non lo vedevo praticamente mai. Non che fossi amareggiato per questo motivo, i bambini di 6 anni non riescono ad immaginare un mondo diverso da quello in cui stanno vivendo. Se il padre lavora significa che è così, che semplicemente non ha tempo per te. Accettano la realtà così com'è. Eppure mi mancava molto. Per questo motivo, un giorno mia madre mi suggerì di andare con lui tutte le mattine in piscina, di fare una nuotata insieme e di prendere un taxi per andare a scuola, da lì, dalla piscina. Non ricordo nulla di quelle nuotate mattutine, ma i viaggi in macchina con papà, sono un ricordo bellissimo. È ancora buio quando ci sediamo sulla nostra Peugeot 504 color argento, i finestrini abbassati. Papà fuma le Kent 100 e mi racconta di universi paralleli che esistono in questo momento in altre dimensioni. Universi dove tutto è esattamente identico al nostro. Stessa strada, stesso semaforo, stessa sigaretta nell'angolo della bocca di papà. Tutto tranne una piccola differenza. E questa differenza papà la modifica ogni mattina, cambiando quell'unico dettaglio dell'universo parallelo che differisce dal nostro. E infatti eccoci qui. Nell'universo parallelo ad aspettare allo stesso incrocio che il semaforo diventi verde, solo che, in questo universo, invece di una Peugeot color argento, cavalchiamo un drago. Poi, quando avevo più o meno 20 anni, mio padre trovò un nuovo lavoro. Non doveva più alzarsi presto la mattina, e la sera cenavamo tutti insieme e guardavamo il telegiornale della sera. A 22 anni io me ne andai di casa dai miei, ma li andavo a trovare almeno 2 volte a settimana. E il sabato nuotavo con papà nella stessa piscina dove una volta aveva lavorato. Quando ho compiuto 43 anni, a mio padre è stato diagnosticato un tumore alla lingua, il risultato di 50 anni di fumo. Quando i medici se ne accorsero, era già a uno stadio avanzato. Ogni lunedì lo porto a fare fisioterapia e mentre ci sediamo in sala d'attesa per vedere il fisioterapista, mio padre a volte parla ancora di universi paralleli in cui tutto è esattamente uguale al nostro, tranne che per la solita piccola differenza. Per esempio, i cani possono parlare, o la gente può leggere la mente, o che so, il cielo è viola. Alla fine di ogni seduta il fisioterapista mi mostra come tenere il braccio di mio padre quando camminiamo insieme e cosa devo fare in caso perdesse l'equilibrio. Sulla strada di casa, quando ci avviciniamo ad un bar aperto da poco, proprio lì vicino, papà si ferma sempre e dice: «Lo senti questo odore? Senti, solo dall'odore posso dirti che questo è il miglior caffè della città». A questo stadio così avanzato della sua malattia, mio padre non può più né mangiare né bere. Viene nutrito attraverso dei piccoli tubicini che arrivano direttamente allo stomaco. In uno di quei lunedì, però, dopo la fisioterapia, passando davanti al solito caffè, mio padre, invece che lodare il profumo dell'aria e tirare dritto, mi chiede di fermarci per un caffè. Papà, gli dico, ma tu non puoi bere nulla. Lo so, mi dice lui, dandomi una pacca sulla spalla. Io no, ma tu sì. Ci siamo seduti a un tavolo dell'angolo sul marciapiede. Ho ordinato un caffè latte e un bicchiere d'acqua alla cameriera, che era una bellissima ragazza. E quando lei chiese a mio padre cosa gli sarebbe piaciuto, lui disse un doppio espresso. Io lo guardai confuso. Lui sorrise e scosse le spalle. La cameriera notò il sorriso colpevole di papà e mi fece uno sguardo interrogativo. Non sapendo cosa dire, io ordinai un biscotto d'avena. Finché il caffè non arrivò, noi siamo rimasti in silenzio. Io volevo chiedere a mio padre perché avesse ordinato quel caffè e se avesse a che fare con la bellezza di quella cameriera, ma non dissi nulla. Papà tirò fuori un pacchetto di sigarette dalla tasca della camicia e un accendino che aveva conservato nella custodia degli occhiali e li mise entrambi sul tavolo. Poi aspettammo. Qualche minuto dopo la cameriera è tornata con il nostro ordine. Lo ha messo sul tavolo, un caffè latte, un bicchiere d'acqua, un biscotto davanti a me e un doppio espresso davanti a papà. Dal mio caffè saliva un profumo aromatico buonissimo. Volevo berlo, ma farlo in faccia a lui mi sembrava ingiusto, così sono rimasto lì a fissarlo. Quando con la coda dell'occhio ho visto mio padre afferrare il suo doppio espresso dal tavolo e buttarlo giù in un solo sorso, sono rimasto di stucco. Era impossibile. Sapevo che era impossibile. Ero lì, nella stanza, quando i medici mostrarono a me e a mia madre la radiografia dicendoci che non avrebbe più potuto ingoiare nulla. Invece ora eravamo seduti insieme in una piacevole giornata d'estate, in un caffè alla moda, io che fissavo ancora la mia tazza fumante di caffè e lui al mio fianco, sorridente, dopo aver fatto fuori il suo doppio espresso. E per un momento io ho pensato che forse eravamo davvero in un universo parallelo. Forse mi aveva raccontato così tante storie da ragazzino da aprire un buco nel cuore dell'universo, quello reale attraverso il quale eravamo stati risucchiato in un universo parallelo, identico al nostro, sotto ogni aspetto, come sempre, tranne che per un'eccezione. In questo universo, mio papà poteva bere e mangiare quanto voleva. In realtà no. In realtà, dopo pochi secondi, papà ha iniziato a tossire, come se stesse soffocando. Si è alzato tenendosi la gola con entrambe le mani, tossiva facendo un suono orribile, il suono di un uomo i cui polmoni sono inondati di caffè caldo. Un tizio con gli occhiali al tavolo accanto a noi si è alzato e ha chiesto a mio padre se avesse bisogno. Io me ne sono rimasto seduto lì, paralizzato. L'universo parallelo che avevo condiviso con mio padre poco prima era scomparso, facendomi ricadere in un universo molto peggiore. Sono seguiti alcuni secondi di gargarismi, dopodiché papà si è chinato, ha tossito e si è liberato di tutto l'espresso che gli aveva riempito i polmoni. Quando ha finito però, si è seduto sulla sedia come se nulla fosse accaduto. Si è acceso una sigaretta. La gente ai tavoli intorno a noi ha continuato a fissarlo. Lui mi ha guardato e mi ha detto «Cosa ti avevo detto?». Ha sorriso e ha emesso il fumo dal naso. Il miglior caffè di tutta la città. Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Nothing's gonna change my world. Questa storia, che per quanto sia una storia che abbia, immaginiamo, un finale molto triste, è raccontata con una splendida leggerezza da Edgar Queretta e noi l'abbiamo ascoltata, raccontata da lui, dalla sua viva voce, in una puntata di This American Life di qualche settimana fa. Ma se avete voglia di trovare questa storia e altre storie di Queretta, potete trovarle nelle sue pubblicazioni italiane, appunto, pubblicate in Italia da Feltrinelli. Questo libro si intitola, nella fattispecie, 7 anni di felicità. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari della ripartenza e poi la nostra storia seriale della settimana. Nuova, nuova, nuova. Linee d'ombra. Insomma, questo lockdown iniziale è finito, in parte è finito, per alcune regioni è finito meglio che in altre. Leggevo settimana scorsa, più o meno martedì o mercoledì, che ad esempio Trapani è considerata la prima provincia in cui l'epidemia è terminata, perché sono passati due cicli di incubatura, cioè sono passati 28 giorni a casi zero, e quindi Trapani in qualche modo sembra fuori. Il problema è che poi è che siamo tutti collegati l'uno con l'altro, e quindi è difficile considerare un pezzo di una regione o di una città o di una provincia completamente libera. Però tant'è, bravi quelli di Trapani. In Lombardia siamo messi un pochettino peggio, ma teniamo duro e continuiamo. Ciononostante, abbiamo chiesto a voi tutti di cominciare a mandarci i vostri diari della ripartenza, visto che dal 18 maggio in qualche modo abbiamo potuto cominciare ad uscire, ad esempio andare a correre, hanno riaperto alcuni locali commerciali, insomma quelli che hanno tenuto botta e sono riusciti a riaprire. E quindi continuiamo a chiedervi i vostri diari della ripartenza. Linee d'ombra @radio24.it, come la state vivendo, cosa state facendo, e i diari arrivano dei diari che ci raccontano più o meno la vita, come va. Questo è uno di quelli. Il mio diario della ripartenza vorrei avesse come titolo Confusa e felice, come la canzone di Carmen Consoli. Già, è strano, ma mi sento proprio così, confusa e felice. Confusa perché abbiamo aspettato per più di 2 mesi questa ripartenza e ora ne ho quasi paura. Felice perché riapertura significa tornare a vivere, significa che la situazione contagi sta migliorando, significa che ci si ammala di meno e si muore di meno. Io ho sempre lavorato durante la pseudo quarantena e ho quindi vissuto veramente, e non attraverso le immagini del telegiornale, la città chiusa, la gente sui balconi, i negozi con le saracinesche abbassate, i posti liberi per il parcheggio e il silenzio assordante. E ora, paradossalmente, sono frastornata da questa semilibertà. Talmente frastornata che mi sento quasi inerme davanti alla possibilità di rivedere i nostri amici più cari dal vivo, senza il filtro di uno schermo. Frastornata dall'idea di andare a bere un caffè al bar, dal poter andare a fare una camminata senza dovermi portare l'autocertificazione, dal non dovermi più chiedere che cosa posso o non posso fare. Mi sento come la bambina che sta cominciando a camminare e a guardarsi intorno. Mi sento come la ragazzina che torna in città dalle lunghe vacanze estive e piano piano riaprono tutti i negozi e tornano uno a uno gli amici. E mi sento come la donna che è stata a lungo in terra straniera e torna a casa dopo molto tempo. Stasera finalmente rivedremo alcuni amici, e forse ciò che più mi spaventa è l'idea di non poter avere con loro un contatto fisico diretto. Sarà stranissimo guardarsi negli occhi con le mascherine e non potersi abbracciare. Ho paura di sentire una distanza con loro, ho paura che non sia più come prima, e allora forse proprio per questo non ho avuto come primo istinto quello di rivederli già il primo giorno. Ora forse comincio ad abituarmi a rivedere la città semiaperta, la gente per strada, le saracinesche alzate, i posti dei parcheggi tutti occupati. E il rumore del traffico, a cui ancora in lontananza si associa la sirena di qualche ambulanza, che ci ricorda quello che abbiamo attraversato e che non dobbiamo dimenticare. Vorrei sentare, vorrei aprirti le mie mani,